Buonasera a tutti, inizia Zardins Magnetics, programma che va in onda ogni giovedì in diretta radiofonica qui dagli studi di Radio Onde Furlane a Udine e, come appunto detto, andremo avanti fino alle 21:30 e andiamo con la sigla di questo programma che è questo brano dei Behind Enemy Lines, Retribution. Bene, questo era il brano sigla di questo programma che è iniziato ora alle ore 20 e andrà avanti fino alle 21:30. Il programma è Zardins Magnetics, qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane. Il brano che abbiamo ascoltato, appunto, la sigla era Retribution dei Behind Enemy Lines. Ora andiamo all'ascolto di questa band finlandese, nata negli anni 80. E comunque tuttora esistente, loro sono i Vivisectio e questo è il loro album, tra l'altro primo album datato 2011. Buonasera, ben ritrovati sulle frequenze di Zartens Magnetics. Iniziamo questa trasmissione cercando di dare a Cesare quel che è di Cesare e parlando delle condizioni, delle responsabilità del sistema sanitario nelle condizioni detentive. E già da tempo si sa che il carcere non esiste solo all'interno del carcere, e come penso sia ormai noto perlomeno agli ascoltatori di questa trasmissione, e gli effetti del carcere si vedono anche al di fuori, e sia per la presenza semplice del carcere come minaccia rispetto a qualsiasi nostra scelta o presa di posizione che va contro i dettami della legge o gli interessi di multinazionali o interessi nazionali. E abbiamo sperimentato quelle che sostanzialmente sono le misure vissute all'interno di un carcere durante il periodo di detenzione imposta durante il lockdown, che magari non tutti abbiamo proprio rispettato, ma insomma abbiamo vissuto quello che può essere la dimensione di una detenzione domiciliare. Abbiamo sperimentato che cos'è la semilibertà, passando da zone rosse ad arancioni, obblighi di rientro, e lascia passare, carte varie, doversi giustificare per ogni movimento che facciamo. E abbiamo o stiamo vivendo anche quello che può essere la dinamica premiale, ossia se ti comporti bene la tua vita è più semplice, altrimenti te la complichiamo. Noi lo viviamo oggi con il Green Pass qua fuori, che magari ti sei vaccinato a posto così, non vuoi farlo, ti fai tamponi, altrimenti perdi il lavoro, non accedi a tutta una serie di servizi. Ecco, questa è un'espansione del carcere, al di fuori del carcere, e sicuramente non abbiamo vissuto l'intensità e la sofferenza che si può vivere quando si è detenuti per anni. Però non solo questo è il carcere fuori dal carcere, e il carcere fuori dal carcere è anche e soprattutto tutto quell'insieme di sistemi, servizi, strutture che hanno rapporti con il carcere e fanno sì che il carcere esista come piccolo mondo apparentemente avulso dalla società. E in particolare dal 2008 il personale sanitario delle carceri fa capo al Servizio Sanitario Nazionale, quindi è un personale che non fa riferimento diretto al direttore del singolo carcere o al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ma si rapporta con quello che è il sistema nazionale, sanitario nazionale, con cui noi tutti ci rapportiamo. E questo perché ci sembra importante farlo notare? Perché ci fa riavvicinare tutte quelle istituzioni che sembrano così inarrivabili, perché di fatto c'entriamo ogni giorno. Per quanto riguarda il carcere di Via Spalato, fa riferimento al distretto sanitario di Udine e quindi a una realtà che ci avvicina, che è accessibile, e proprio per questo, per cercare di sensibilizzare e richiamare le proprie responsabilità, in passato sono stati fatti dei presidi di fronte al distretto sanitario, cercando di riportare quelle che erano le segnalazioni, le denunce, le richieste d'aiuto provenienti dall'interno del carcere attraverso delle lettere o comunque sia dei comunicati che ci sono pervenuti e che descrivono una realtà che è decisamente pesante. Se il garante dei detenuti di Udine, Corleone, parla del carcere di Udine, dicendo: a Udine i 90 posti disponibili sono occupati da 137 poveracci, in una sorta di blasfema moltiplicazione non dei pani e dei pesci ma della tortura. Ok, se a questo affianchiamo le condizioni sanitarie, la tortura diventa addirittura un termine riduttivo. Le denunce riguardano la difficoltà o l'impossibilità ad avere colloqui con lo psicologo. Consideriamo che una persona detenuta comunque sia in una situazione di forte deprivazione, molti non riescono neanche ad avere i colloqui per difficoltà anche dei familiari a recarsi ai colloqui, quindi vivono un isolamento estremo che crea sicuramente delle difficoltà anche a livello psicologico per reggere la situazione. Ma oltre a questo si parla di somministrazione di terapie sbagliate, di presenza di farmaci scaduti all'interno dell'infermeria, mancanza di soccorso tempestivo nei momenti di bisogno, di personale infermieristico che non copre le 24 ore di presenza e anche di detenuti che soffrono di gravi patologie che non riescono ad accedere all'infermeria. Alcuni devono attendere l'intera giornata per poter ricevere le proprie terapie, e tutto corredato da un'eterna mancanza di documentazione che fluttua da un carcere all'altro nel caso in cui il detenuto sia trasferito, o che non giunge o viene bloccato o ritardato nel caso in cui ci sia stata una visita all'esterno, quindi uno che viene portato all'esterno del carcere per fare dei raggi, una radiografia o qualsiasi altra visita medica, si vede recapitare i referti con estremo ritardo, talvolta addirittura uno viene trasferito prima. Quindi tutto questo fa sì che la tutela della salute sia assolutamente assente. Chiaramente le condizioni detentive di sovraffollamento causano anche una maggior diffusione di eventuali malattie, e ricordiamo che il servizio sanitario dovrebbe occuparsi anche di valutare l'idoneità degli spazi e delle strutture ad ospitare delle persone, e quindi in un carcere come quello di Udine, che è fatiscente, sembra che sia a breve in partenza la ristrutturazione, il 12 e il 13 novembre in Sala Iace faranno la presentazione in pompa magna del progetto di ristrutturazione, però fatto sta che all'atto d'oggi parliamo di un carcere vecchio, fatiscente, con muffa, con infiltrazioni di umidità, in cui circola, magari non adesso ma in passato sicuramente, circolata la scabbia, e chiaramente in condizioni di sovraffollamento e scarsa igiene tutte queste malattie, che sarebbero facilmente contenibili, diventano ingestibili, e la salubrità dei locali chiaramente fa capo anche qua al servizio sanitario, che dovrebbe perlomeno segnalare l'inidoneità, a mio avviso, mentre sull'intero fronte c'è un silenzio plumbeo. E ricordiamo anche che il carcere di Via Spalato non è nuovo a detenuti morti. E dal 2002 ad oggi sono morte 9 persone. E Sergio, di 31 anni, morto di malattia, anche qua difficile capire che cosa sia una malattia. Marco, di 36 anni, anche lui di malattia. Ramon, di 35 anni, suicida. Matteo, di 28 anni, con una probabile overdose di psicofarmaci. Alessandro di 52 anni, suicida. Savino di 70 anni, morto anche lui di malattia, questo aveva delle gravi patologie. Il tribunale che valuta la possibilità di essere scarcerati per problemi di salute ha rigettato la richiesta perché apparentemente la valutazione medica era di idoneità, e parliamo di una persona diabetica e con una gamba amputata, quindi la compatibilità col carcere direi che è fuori discussione. E Dalia di 33 anni, persona transessuale che è morta suicida, un giovane richiedente asilo pakistano di cui non è trapelato neanche il nome, anche lui morto suicida a 18 anni, e Ziad nel 2020 di 22 anni, anche lui morto per una probabile overdose di psicofarmaci e metadone. Quindi capiamo che anche la gestione delle somministrazioni delle terapie è decisamente priva dello scrupolo necessario a capire quali siano le condizioni reali della persona che sta per assumere i farmaci somministrati. E quindi tutto questo ci fa puntare il dito nuovamente contro il distretto sanitario e la sua dirigenza, magari non per essere responsabili diretti, ma sicuramente perché stanno omettendo di sorvegliare una situazione che è lampante, sia insostenibile. E proprio per le ripetute denunce fatte all'esterno, sia da queste frequenze, sia davanti al distretto sanitario, ma anche sotto il carcere di Via Spalato, dove ci si è recati per cercare di portare solidarietà ai detenuti, per cercare di entrare in contatto con loro e riuscire a creare un ponte tra dentro e fuori. E, due compagni hanno ricevuto delle denunce per istigazione e diffamazione, e con un processo che sta andando avanti, la prossima udienza sarà il prossimo 11 novembre. E fa ben sperare la notizia apparsa sul Tirreno oggi riguardo all'assoluzione di 17 detenuti accusati di aver provocato tafferugli con insulti, offese e lancio di pietre nell'agosto del 2017. È stato emesso un decreto di archiviazione, in quanto la rivolta nata successivamente a un suicidio avvenuto nella carcere di Pisa è stata vista dal giudice come una forma di protesta e, cito, unica modalità espressiva ritenuta idonea dai soggetti per far sentire la loro voce a tutela dei loro diritti. E quindi è quasi un incoraggiamento. Nel momento in cui bussare educatamente alle porte non sortisce alcun effetto, quando le raccolte di firme non sortiscono alcun effetto, di fronte a dei diritti fondamentali come sono quelli del diritto alla salute e alla tutela della propria integrità fisica, a quanto pare è giusto adottare l'unica modalità ritenuta idonea per far sentire la propria voce. E un'ultima postilla a questo dare a Cesare quel che è di Cesare, un invito a richiamare o a chiamare le cose col loro nome e a chiamarli col loro o chiamarle col loro nome. E se fa piacere leggere sempre l'invettiva di Corleone, garante dei detenuti, che dichiara: deve essere chiaro che il sovraffollamento non è un elemento naturale come la grandine, ma è il prodotto di una scelta politica criminale, e quindi chi compie scelte criminali a casa nostra si chiama criminale. E appare però che le invettive generiche e lasciano un po' il tempo che trovano, nel senso che ormai viviamo in una società in cui il clamore è fatto quotidiano, e parlare di tortura, di criminalità, di scelleratezza ormai fa parte dei proclami quotidiani fatti da buona parte dei politici e buona parte dell'establishment, quindi considero che alla fin fine sia necessario tornare un pochino anche al loro amato codice penale, in cui si dice che le responsabilità sono personali, e quindi se qualcuno è responsabile o incaricato di verificare e di controllare qualcosa, è giusto che sia richiamato a farlo. E per questo un invito alla nuova dirigente del distretto sanitario di Udine, Mara Pellizzari, che è in carica da questo maggio, un invito a lei di inserire nella sua, suppongo, fitta agenda anche il carcere di Via Spalato, e un invito anche a verificare quanto fatto da chi all'interno di quel carcere doveva portare, occuparsi delle condizioni di salute delle persone detenute, come risulta essere la dottoressa Bravo, che non sappiamo se è ancora incaricata o ricopra ancora tale incarico, ma sicuramente in passato lo ha fatto, e quindi sarebbe opportuno che tutte queste persone magari inizino ad assumersi le responsabilità e chiariscano perlomeno cosa sta succedendo all'interno del carcere. E come abbiamo visto dalle denunce finora arrivate, quando si dà un nome alle cose iniziano a andare in fibrillazione, ma non credo che per questo sia il caso di ridurci alle vuote invettive. E con questo concludo, e spero di aver comunque sia dato un po' di indicazioni utili a capire come funziona la sanità all'interno del carcere e come alla fin fine ciò che ci sembra così lontano in realtà ci cammina a fianco. See you. Intanto rimaniamo all'ascolto ancora di questa band finlandese Vivisectio, da questo loro album 1984, 1984, band che comunque si è formata nei primi anni 80 per poi fermare l'attività, insomma, tutti gli anni 90 per riformarsi nei primi anni 2000, tuttora band esistente, e questo è il loro album datato 2011. Rimaniamo comunque all'ascolto ancora di questi Vivisectio. Un saluto anche da parte mia, siamo sempre su Zardins Magnetics, Radio Onde Furlane, e continuiamo a parlare di carcere. È 2 ottobre 2021, la solidarietà è la nostra arma, e ci saranno in questa giornata due presidi importanti, solidali con i detenuti, uno a Udine, appunto sotto il carcere di Udine, e uno sotto il carcere di Terni, quindi uno sotto un carcere per detenuti, diciamo, chiamiamoli comuni, e anche per pene non troppo lunghe, quello appunto della città di Udine, e uno invece sotto un carcere sì, di massima sicurezza, dove c'è una sezione politica molto dura. E due presidi per noi importanti, beh, diciamo una bella coincidenza, se si può usare la parola bella in questo caso, perché a Udine, per quanto ci riguarda, insomma, facciamo questo presidio perché qui viviamo e qui portiamo avanti la nostra attività politica contro il carcere. E a Terni, anche lì ci sentiamo vicini, perché a Terni ci sono detenuti compagni per noi importanti. E vado appunto a leggere i volantini di indizione. Beh, partiamo da Udine. Via Spalato dopo un anno e mezzo. E allora, l'ultimo appuntamento che siamo riusciti a realizzare in Via Spalato è stato l'11 giugno del no, scusate, il 20 giugno del 2020. Come diceva la compagna che mi ha preceduto, nei giorni immediatamente precedenti avevamo fatto l'ennesimo presidio, si può dire ennesimo, davanti appunto al distretto sanitario, proprio per denunciare la mala sanità cronica e colpevole, della quale appunto il Servizio Sanitario Nazionale è responsabile, e anche però per dialogare, comunicare appunto con la popolazione che al distretto sanitario appunto si rivolge nella quotidianità. E appunto in giugno invece avevamo fatto questo presidio in Via Spalato per dialogare con i detenuti. Da quel tempo poi non è più stato possibile fare presidi per varie ragioni. Quindi, dopo un anno e mezzo di confinamento, di coprifuoco, di violenze di Stato, di vaccinazioni coatte e indotte da propaganda, minacce e discriminazioni realizzate, dopo un anno e mezzo durante il quale il tecnocontrollo sociale si è perfezionato spietatamente, ora che anche le nostre città assomigliano sempre di più a galere a cielo aperto, con le loro sezioni differenziate in base al censo, Il carcere rimane il paradigma della società penale, la massima deterrenza, la pietra angolare di tutto l'edificio. Anche dopo i massacri di Santa Maria Capua Vetere, sul proprio fondamento penale lo Stato non discuterà mai. Perciò abbiamo pensato di ritornare in via Spalato per riprendere il contatto e il dialogo con i detenuti, per capire qual è la loro condizione di vita in questi ultimi mesi, per capire in che condizione si trova l'area sanitaria, il cui degrado cronico è stato pubblicamente denunciato dai detenuti stessi. Ritorniamo poi per ricordare Ziad, il giovane morto in via Spalato il 15 marzo 2020, a causa della mala sanità e della psichiatrizzazione forzata praticata in quel carcere, per continuare la lotta e sostenere chi si ribella a tutto ciò. L'appuntamento appunto per sabato 2 ottobre qui a Udine è dalle 15 alle 17 circa, praticamente ci sarà musica, interventi al microfono aperto e anche della distribuzione di materiale anticarcerario. Precisamente il presidio sarà tra via Ragusa, cioè in via Ragusa all'angolo con via Zara, che è una laterale di via Cividale, quindi non propriamente in via Spalato, in quanto in via Spalato ci sono praticamente gli uffici, mentre in questa via dove ci mettiamo è possibile raggiungere i prigionieri, insomma farsi sentire, anche vederli dalle loro celle, almeno quelli ai piani superiori. E continuiamo appunto con la lettura anche del volantino di questo presidio solidale, un presidio prettamente anarchico, che si terrà sempre sabato 2 ottobre alle ore 14 sotto il carcere di massima sicurezza di Terni. Tra le mura della sezione AS2 del carcere di Terni si trovano Juan e Alfredo, due compagni anarchici imprigionati dallo Stato, uno dal 2019 e l'altro da oltre 10 anni. Entrambi sono accusati di strage, accusa che può prevedere la pena dell'ergastolo, un'accusa che si rivela ancora più infamante, mentre senza tanti scrupoli, nelle galere di tutta la penisola, l'apparato statale ha mostrato il pugno duro, rivelando la sua vera natura stragista. Non occorre andare indietro nel tempo, i morti di Modena, Rieti, Bologna, il massacro di Santa Maria Capua Vetere dell'anno scorso, ma anche i morti nel Mediterraneo, la gestione militare della epidemia di Covid, l'imposizione del lasciapassare e la vita digitalizzata sono alcune delle manifestazioni del dominio che ogni giorno aumenta nella direzione di incasellare l'intera società in una prigione a cielo aperto. Chi ha trovato e trova ancora il coraggio di affrontarlo a testa alta, con le parole e con l'azione, è fatto prigioniero, zittito o addirittura ucciso. Dopo le pesanti condanne dell'operazione Scriptamanent e dell'operazione Panico, anche le richieste per l'operazione Prometeo vanno dai 17 ai 18 anni. Il 2 ottobre a Treviso riprenderà il processo a Juan, accusato di aver posizionato due ordigni, di cui uno inesploso, presso la sede della Lega di Villa Orba nell'agosto del 2018. E tra non molto seguirà la sentenza. Ci dicono i compagni che hanno organizzato questo presidio: il nemico è chiaro, il carcere è strutturalmente violento perché violenta è la natura dello Stato. Attaccarlo rimane l'unica possibilità per riconquistare qualche pezzo di libertà e aprire squarci per una vita diversa. La solidarietà è la nostra arma. E appunto, anche se noi saremo a Udine, un pezzo insomma di testa e un pezzo di cuore saranno anche a Terni. E da parte nostra, oltre a manifestare questa solidarietà verso Juan e Alfredo, per i quali si fa questo presidio, vogliamo ricordare anche i numerosi prigionieri rivoluzionari che stanno scontando l'ergastolo del carcere di Terni e che stanno scontando l'ergastolo proprio perché hanno scelto di non collaborare in nessuna maniera con lo Stato. E la band che ci siamo ascoltati ora sono gli Afora del Rastu, band dalla Sardegna, da questo loro split datato 2019 assieme ad un'altra storica band hardcore italiana, ovvero gli Affluente di Ascoli Piceno. E rimaniamo comunque all'ascolto del lato, insomma, di alcuni brani di quest'altra band, come che è sulla scena, sui palchi italiani da oltre 20 anni, mentre gli Affluenti ormai sono anche vicino a 30, che gironzolano in giro per Italia ed Europa. Comunque rimaniamo all'ascolto di questi Afora del Rastu. Come on. Questi erano gli Afora de Arrastu, band dall'area di Cagliari in Sardegna, che abbiamo ascoltato questi brani da questo loro split uscito nel 2019 assieme ad una band di Ascoli Piceno, ovvero gli Affluente. Ora andiamo invece all'ascolto di questa band dell'area di Roma. Loro sono il nome della band è Cose Perse e l'album datato 2003 si chiama Introspezione. Picchia forte con suo bacio esile e su muscoli soffrono sotto il peso della spigolosa scure. Acqua è il masigno, ove nulla traspare di percar continuo flagella il suo animo. Mentre a terra cadono i grossolani detriti, ora si scorge la bellezza nascosta in fondo al cuor suo. Mentre a terra cadono i grossolani detriti, ora si scorge la bellezza nascosta in fondo al cuor suo. Picchia forte col suo bacio esile lo scrittore, picchia forte col suo bacio esile, picchia forte col suo braccio esile, lo scultore, picchia forte col suo braccio esile. Sì, ritorniamo alle parole. Allora, il terzo argomento, no, il secondo argomento, il terzo intervento della trasmissione è un po' sulle... è una riflessione, cioè contiene delle riflessioni sulla pandemia, la gestione della pandemia e invece le altre possibilità per affrontare la malattia in generale, la malattia ma anche la salute, insomma, il proprio stato di salute nella forma dell'autodeterminazione. Vedrete quando se qualcuno ha voglia di riascoltare la trasmissione sul blog jardinsmagneticsradio.noblogs.org, vedrete che nella scaletta di oggi c'è una così una frase un po' che potrebbe apparire un po' bucolica. Cioè la frase dice: guarire dalla paura, naturalizzare il nostro rapporto con il corpo, la salute e la vita. E questo perché volevo così leggervi alcune parti della rivista Nunatak, l'ultimo numero, il numero 61, che appunto è appena uscita, perché ha deciso praticamente di affrontare la questione Covid da un punto di vista molto pratico e concreto. Cioè i redattori hanno fatto un'intervista a un'infermiera che vive in una valle piemontese, che nell'ultimo anno e mezzo si è spesa senza sosta insieme ai suoi colleghi e le colleghe nel cercare di dare una mano a chi, ammalatosi di Covid, si è trovato abbandonato dal Servizio Sanitario Nazionale. Diversamente dalle altre edizioni, insomma, di Nunatak, hanno scelto proprio di di fare questi articoli molto concreti, cioè che parlano anche di opportunità, diciamo, di affrontare la malattia. C'è addirittura un vademecum, un protocollo di prevenzione e cura, che è molto interessante. Boh, non ve lo leggo perché è molto insomma, ci sono tutto l'elenco delle cure alternative anche fitoterapiche e dei comportamenti che si possono tenere. È un protocollo che è stato redatto da una naturopata sempre piemontese ed è stato, tra l'altro, l'abbiamo distribuito anche alle piazze No Green Pass di Udine. Questo perché comunque in generale le persone si attivano nel momento in cui si parla anche di cose concrete, cioè che riguarda cose che riguardano la vita di tutti i giorni e non solo, insomma, quando si fanno discorsi, diciamo, metafisici. Ma continuiamo a vedere cosa ci dicono i redattori di Nunatak. Ci dicono del perché della scelta di pubblicare anche delle cose molto precise, molto concrete. L'abdicazione alla cura che ha caratterizzato questi ultimi mesi di emergenza ha fatto sì che gruppi di medici, infermieri, nutrizionisti, eccetera, si siano auto-organizzati, contravvenendo alle indicazioni del governo, semplicemente per continuare a fare il proprio mestiere, che tra l'altro è un mestiere di cura. Ovviamente tra coloro che hanno vissuto questa esperienza è alto il numero di coloro che nutrono forti dubbi sulla campagna vaccinale, avendo banalmente visto che le alternative ci sono, basta volerle praticare. Oggi, con l'obbligo vaccinale diretto o tramite il ricatto del Green Pass, molte di queste persone sono state sospese dal lavoro, licenziate, costrette all'inattività. La cosa più odiosa e paradossale è che questa vera e propria epurazione viene fatta in nome di valori umanitari. Chi non si sottomette ai diktat della pseudoscienza sarebbe un irresponsabile, un insensibile, un untore. Non c'è più spazio per medici, infermieri, insegnanti, educatori che osano avere dei dubbi, che hanno la velleità di voler fare il proprio mestiere in scienza e coscienza. Ah, prima di dimenticarmi, se volete leggere la non solo al completo, insomma, questo articolo, appunto Guarire dalla paura, ma anche gli altri contenuti nella rivista, potete richiedere, insomma, Nunatak, e potete richiederle anche a noi dell'Assemblea contro il carcere e la repressione, scrivendo alla mail liberetutti@autistiche.org. Allora, vediamo che cosa ci dice questa infermiera. I redattori di Nunatak le chiedono, parliamo di politiche sanitarie, quindi governative, eppure l'indicazione è stata chiara, paracetamolo e aspettare. Perché il protocollo tachipirina e vigile attesa? E questa infermiera risponde, diciamolo chiaro, questo protocollo è utile se si vogliono far morire le persone, e così è stato fatto. Ma se non vogliamo essere cattivi e non pensare che ci fosse una volontà dietro, il paracetamolo è un antipiretico, quindi se il primo sintomo che tu hai è la febbre, la risposta più facile è pigliati il paracetamolo, così tiri giù la febbre. Ma tutti sappiamo, lo dice qualsiasi libro di microbiologia, che la febbre è un sintomo, cioè è una reazione del corpo che dice rialzo la temperatura perché c'è un'infezione. Poi è ovvio che ci sono casi particolari, nei bambini con febbre tanto alta bisogna cercare di tenerla a bada perché possono esserci delle crisi epilettiche, ma in generale la tachipirina non può essere la risposta, come invece è stato, anche perché il paracetamolo, a parte che camuffa, nel senso che tirando giù la febbre uno dice ah, ora sto bene, e invece l'infezione c'è ancora. Ma poi si è anche visto che il paracetamolo influisce sul glutatione, che serve a mantenere un equilibrio anche rispetto al tasso glicemico. Per questo i diabetici erano quelli più a rischio, perché avendo già una glicemia non equilibrata, con l'abbassamento forte del glutatione gli si scompensa la glicemia, le cellule sono più permeabili e il virus si infila dentro più facilmente. Quindi non vogliamo pensare male, però le indicazioni sono state queste, e a parte la questione del glutatione, noi già sappiamo che di fronte a una sintomatologia febbrile la prima cosa da fare non è tirare giù la febbre, anche se poi l'abbiamo fatto un po' tutti. Ho la febbre, mi prendo un po' di tachipirina, ma in questo caso di virosi non va assolutamente bene. Infatti, che cosa è successo? Tutti tappati in casa, con focolai domestici che ovviamente crescono, abbassi la febbre, quindi riduci la possibilità del corpo di reagire, magari hai delle copatologie, stai lì a non fare niente, dopo 7-10 giorni inizi a stare veramente male. In che senso? Ci sono delle fasi, il tempo 0, il tempo 1, il tempo 2, fino a una infiammazione generalizzata, che è quella famosa cascata di citochine. L'infiammazione prende prioritariamente la parte polmonare e poi si estende agli altri organi, ma non prende gli alveoli. O lo scambio gassoso, ossigeno, anidride carbonica, prende la parte vascolare degli alveoli, quindi si forma una vasculite, un'infiammazione del vaso, del capillare che irrora l'alveolo e quindi tutto il polmone. Quindi infiammandosi questa parte si creano dei piccoli trombi, i trombi vanno a ostruire gli alveoli ed ecco che uno non respira più. Perciò la terapia non è buttare dentro ossigeno a manetta, ma scoagularli, cioè cercare di non fare formare i trombi. Invece in ospedale facevano e fanno solo terapie standard, la gente continuava a peggiorare e più peggioravano e più gli davano ossigeno senza chiedersi il perché. Ecco perché invece, oltre alla prevenzione, come prima cosa è importante una tempestiva terapia antinfiammatoria. Per chi può prenderla, in particolare l'aspirina, perché l'aspirina non va a incidere sulla febbre, sulla temperatura, ma è un antinfiammatorio che va a disinfiammare e ha anche una piccola azione antitrombotica. Quindi la cosa centrale è diminuire l'infiammazione, che in questo caso è polmonare, ma che poi si può trasmettere all'intestino, alla parte cardiaca, eccetera. Questo è il meccanismo, nei termini più semplici possibili, di come da un contagio si può passare, oppure no, a una infiammazione generalizzata. Abbiamo letto una parte dell'intervista a questa infermiera piemontese, intervista che appare su Nunatak, sulla rivista Nunatak. Passiamo adesso un attimo, cioè quindi lei ha fatto un quadro, diciamo, della situazione, cioè del protocollo governativo, di ciò che non si deve fare invece di ciò che è opportuno fare, e nella maniera più semplice possibile. Passiamo adesso a un opuscolo che si chiama È l'ora delle medicine, contro la medicina moderna e l'industria che l'accompagna. Veramente ci sono, in questo opuscolo c'è anche un altro articolo di Franco Cantù, Estrema sussunzione, ovvero l'immunità del gregge. Ma noi ci concentriamo su questo scritto di anonimo Franco Provenzale, È l'ora delle medicine. Allora ci dice, si dice in questo opuscolo: alla nostra epoca uno degli elementi più potenti del potere è la medicina moderna. Adopero il termine medicina moderna per definire la medicina attuale in senso ampio, dalla chirurgia alla genomica, passando per la virologia, sviluppata a partire dall'epoca moderna, fine del XV secolo, con la scienza, l'idea di ragione e l'industria. In questi ultimi mesi il potere di questa medicina si è decuplicato, e se già prima era difficile criticarlo, lo è ancora oggi. È più difficile. E poi, appunto, questo anonimo autore Franco Provenzale prova a rispondere ad alcune false evidenze. Una prima falsa evidenza vorrebbe che la crisi di Covid-19 sia dovuta unicamente a un virus, senza tener conto del contesto, lasciando intendere che la crisi finirà con la scomparsa di questo virus. Penso al contrario che una malattia sia più o meno virulenta a seconda dello stato di salute di una popolazione. Nello specifico, quando si è diffuso questo coronavirus, la popolazione mondiale versava in un particolare stato di cattiva salute, che è dovuta principalmente alla società industriale. Le persone, tra virgolette, a rischio, in realtà, sono quelle con affezioni croniche, conseguenza di diversi agenti inquinanti e stili di vita: cancro, diabete, obesità, problemi cardiaci, malattie respiratorie. Chiaramente gran parte di queste malattie c'erano già prima dell'industrializzazione, ma ora sono sempre più frequenti con lo sviluppo della chimica di sintesi, del nucleare, delle onde elettromagnetiche, dell'uso del petrolio, eccetera. Viviamo un'epidemia di malattie fin dall'inizio della prima rivoluzione industriale. D'altra parte, mentre la produzione industriale è calata a causa del confinamento, si è registrata una diminuzione della mortalità, ad esempio della mortalità legata all'inquinamento, agli incidenti stradali, ma anche sono calati anche i morti sul lavoro durante il lockdown. Poi, il sistema medico attuale ci fa credere che ogni persona è responsabile della propria salute, eppure, malgrado alcune decidano di mangiare bio e vivere fuori città, per dire, o di andare a correre tutti i giorni, sono anch'esse esposte a malattie croniche, una volta superata l'aspettativa di vita in buona salute. La critica del tabagismo ha le spalle larghe, anche se la gran parte dei tumori è dovuta anzitutto agli scarichi industriali, all'amianto, i fumi di idrocarburi, il benzene. L'idea che la salute sia individuale è un mito. L'industria è presente in ogni ambito delle nostre vite ed è difficile sfuggirne. Certo, le classi superiori hanno la possibilità di abitare e lavorare più lontano dalle fabbriche, sono meno colpite e hanno un'aspettativa di vita più lunga, ma gli inquinanti circolano nell'aria e nell'acqua e alla fine colpiscono tutte le persone. Se sono in molti a chiedere una riforma affinché la prossima volta ci sia un respiratore artificiale, un pacemaker, una macchina da dialisi e un organo sintetico per ogni cittadino, io penso invece, ci dice l'anonimo Franco Provenzale, che bisogna iniziare a distruggere ciò che ci fa ammalare. È contraddittorio, oltre che controproducente, adoperare la medicina moderna per risolvere questa crisi. Stiamo chiedendo a chi ci avvelena di curarci. Si tratta della stessa categoria sociale, gli esperti scientifici, degli stessi mezzi, il nucleare, la chimica di sintesi, eccetera, e dello stesso paradigma, la scienza, che fanno ammalare e che vengano adoperati dalla medicina moderna. La medicina moderna riesce a curare certe malattie, ma con il rischio di crearne di nuove. Si chiama iatrogenesi. Per esempio, l'uso di ormoni di sintesi può provocare tumori. Un antiepilettico può causare malformazioni al feto. Ed è risaputo dal corpo medico che bisogna evitare, per quanto possibile, risonanze magnetiche e radiografie, entrambe di origine nucleare. Questi interventi medici nocivi sono adoperati anche su persone in buona salute. L'estetica e l'infertilità, spesso provocata dai perturbatori endocrini della società industriale, anche se non essere fertile non è una minaccia per la salute, non sono malattie, eppure sono dei farmaci a porvi rimedio. Inoltre, i laboratori farmaceutici, proprio come una fabbrica di pesticidi, emettono anch'essi rifiuti cancerogeni. Anche i vaccini possono essere iatrogeni, in primis perché contengono sali di alluminio come coadiuvanti per favorire la risposta immunitaria. Alluminio che può provocare malattie neurologiche come l'Alzheimer, sclerosi a placche, Parkinson. In secondo luogo, oggi compaiono nuovi casi di poliomielite derivanti dalle mutazioni del ceppo vaccinale. Pur non contenendo alluminio, i vaccini contro il Covid-19 sviluppati attualmente adopererebbero nuovi metodi e nuovi agenti coadiuvanti di cui prima di vari anni non si conosceranno gli effetti indesiderati. La medicina moderna fa parte del problema, non è una soluzione. Dobbiamo scegliere, continuare a farci curare passivamente da chi ci fa malare oppure combattere attivamente le nocività industriali? A mio avviso agire è il modo migliore per riprendere il controllo delle nostre vite. Ma perché siamo così pochi a criticare la medicina? Perché ne siamo dipendenti. Quando nell'epoca moderna si è sviluppato il pensiero scientifico, la medicina moderna è stata inquadrata legalmente, mentre le altre medicine sono diventate proibite. In tal modo ha ottenuto l'egemonia. Da lì in poi siamo stati sempre più spossessati delle conoscenze e pratiche mediche, costretti ad affidarci a specialisti per curarci. E intanto rimaniamo sempre all'ascolto di questa band dell'area di Roma, e loro sono Cose Perse, e questo è l'album Introspezione, e che è un album edito nei primissimi anni 2000. Qui sarò per mangiare di pezze che per anno mi sazia, non andò questi ricordi, certe emozioni che hanno la pelle, amore tra le vino scusa le suola, affigati vento di mamma. Sì, il tempo è un po' tiranno. Comunque, sì, avevo in mente sì, non mi sono organizzata con i tempi, nel senso che avevo in mente di dire più cose, ma non importa. Ritorniamo all'infermiera piemontese. Allora, l'anonimo franco-provenzale dice: agire è il modo migliore per riprendere il controllo delle nostre vite. E lei dice, l'infermiera, bisogna andare avanti con la schiena dritta e con le proprie convinzioni. Questo appunto riferito a cambiare rotta individualmente ma anche collettivamente rispetto a un'adesione alla medicina del capitalismo, così un'adesione totale, e cercare invece un rapporto appunto diverso con il proprio corpo, con il proprio stato di salute e anche con la malattia. E vabbè, questa intervista è molto lunga, lei racconta, spiega un po' quello che hanno fatto, insomma, tutti questi operatori sanitari insieme anche ai medici dell'associazione Ippocrate, e cosa hanno fatto a livello totalmente volontario, insomma, come si sono mossi con le persone, andando a curare le persone a casa, persone abbandonate dai medici di base perché appunto il governo ha imposto in qualche maniera ai medici di base di andare dai pazienti, e la maggior parte dei medici di base ha accettato, diciamo, questo diktat. Questi invece sanitari appunto hanno scelto di supportare le persone a casa. Descrive per filo e per segno, insomma, poi appunto tutte le cose, e poi parla anche di educazione sanitaria, parla dell'alimentazione, parla degli integratori seri, vabbè, si può nominarne uno che c'è in questo protocollo di prevenzione e cura, che è l'echinacea, nello specifico la tintura madre, che appunto è un rimedio fitoterapico che va bene sia a livello di prevenzione che a livello di cura, non solo in caso, insomma, di malattia debole, anche in caso di malattia seria, di infezione seria. Quindi, per dire che è una roba base che si può fare, e anche economicamente a portata di mano. Bon, e quindi questa infermiera si sofferma su varie questioni, e parla molto appunto dell'alimentazione, e poi dice: e in caso di infezione, le cure precoci. Questo è importante perché anche questo è molto concreto. Per quanto riguarda le cure, è importante organizzarsi per averle a portata di mano in caso di primi sintomi, in modo da non trovarsi impreparati e agire tempestivamente. Sicuramente quello che bisogna avere a casa è la vitamina C, pura, in polvere, in compresse, quello che è. Questa è la prima cosa, perché la vitamina C, che è acido ascorbico, è un antinfiammatorio. Però ci sono anche quelli che la vitamina C non possono prenderla, ad esempio chi è favico, vabbè. Quindi bisogna conoscersi, questo è importante, bisogna conoscersi. Gli integratori fondamentali sono questi, oltre alla vitamina C, la vitamina D3, lo zinco, la lattoferrina. Vabbè, poi nomina varie medicine, diciamo, come l'aspirina, medicina antica, per così dire, e poi altri antinfiammatori come il l'ibuprofene, vabbè, queste cose qua, lascio perdere le marche che, insomma, non importa. Poi c'è l'idrossiclorochina. Oggi le farmacie la vendono senza ricetta, in pastiglie, Plaquenil. Consiglio di prenderla e tenersela lì. A marzo scorso, ad esempio, non la trovavi più, perciò conviene prepararsi per tempo. Un altro farmaco di cui ora si parla è l'ivermectina, un antiparassitario. Si usa a scopo veterinario per la filaria. A livello umano si può fare preparazione galenica. Chi l'ha usato dice che è ottimo per la cura del Covid, con alcune controindicazioni in più dell'idrossiclorochina. Vabbè, insomma, nell'intervista poi si continua parlando appunto dei protocolli indicati da Ippocrate.org, questa associazione di medici che sono, diciamo, non sono in linea con il governo e che però prendono alla lettera il loro compito, e cioè il giuramento di Ippocrate, quindi si dedicano ai pazienti e agli ammalati, e non seguono i diktat di governo e le indicazioni che non sono come quelle della vaccinazione obbligatoria o para obbligatoria, che non sono appunto provvedimenti sanitari ma politici. E poi le chiedono, per finire, le chiedono qual è la situazione di fronte all'obbligo vaccinale per i sanitari e se vuoi dircela, qual è la tua scelta personale? Per essere molto semplici, io mi chiedo perché mai uno debba essere obbligato a fare una terapia, a farsi inoculare un qualcosa che non sappiamo cosa sia, di cui non c'è stata sperimentazione, quando esistono le terapie per non peggiorare e per non ammalarsi. Questo è il mio primo dubbio, sulla base del quale io ho detto chiaramente che non ho nessuna intenzione di farlo. Ad oggi siamo solo noi, tutti gli operatori sociosanitari, ad aver avuto l'obbligo vaccinale da decreto. Era di agosto questa intervista. Quindi, cosa sta succedendo? A tutti noi sanitari non vaccinati hanno iniziato a mandare la prima raccomandata, dove si diceva che in base a un controllo risultava che non eravamo stati vaccinati e quindi si invitava a presentarsi per farsi vaccinare. Le strategie di risposta a questo primo invito sono state molteplici. Alcuni avvocati hanno consigliato di non rispondere, altri di rispondere sulla questione della privacy, altri di rispondere che stai facendo esami del sangue, in modo da rimandare. La finalità è quella di tirare per le lunghe questa situazione, un po' perché in teoria questo obbligo è valido fino al 31 dicembre. In teoria, perché sappiamo che subentrerà qualcos'altro, che non sarà più il vaccino, ma saranno forse gli anticorpi monoclonali. Poi arriva la seconda raccomandata, a me appena arrivata, in cui si dice che entro 15 giorni devi andare a farti vaccinare, pena le sanzioni previste dalla legge. Io personalmente non so ancora, non ho ancora deciso come rispondere. Qualcuno di noi non ha mai risposto. Per qualcuno si è arrivati alla sospensione, finora non qui in Piemonte, ma in Veneto e in Lombardia. Vabbè, appunto, poi le cose vanno molto velocemente, quindi in realtà le sospensioni ci sono un po' ovunque, e sì, un po' in tutta Italia. Ti faccio l'esempio: nell'ospedale in cui lavoro io ad oggi, 16 agosto, siamo in 100 a non essere vaccinati, su un totale di circa 600, fra tutte le categorie, OS, amministrativi, tecnici, medici, infermieri. Quindi è ovvio che se tutti rimanessimo fermi sulle nostre posizioni non potrebbero sospenderci tutti. Nessuna direzione generale potrebbe farlo, perché dovrebbero chiudere reparti, chiudere ambulatori. Bisognerà vedere cosa succederà. I sanitari in questo momento devono resistere e stare fermi, perché se passano sopra di noi passano su chiunque. Bisogna resistere a costo della sospensione. Gli aiuti ci saranno. Stiamo creando delle reti che funzionano, delle chat di sanitari, c'è un'associazione che si chiama Contiamoci, che sta creando una cassa di mutuo soccorso per i colleghi che sono stati sospesi. Vabbè, io mi fermo qui perché siamo alla fine, magari riprenderemo il discorso. Comunque ci tenevo a concludere con questo discorso della... Abbiamo detto prima, la solidarietà è la nostra arma, anche in questo caso la solidarietà è la nostra arma, nel senso di non frammentare le azioni, cercare di, come dice questa infermiera, di stare fermi, di tener duro in caso appunto di obbligo, cioè di imposizione del vaccino, di tener duro e di rimanere in collegamento in modo da non lasciare da sole le persone che si dovessero trovare in difficoltà dal punto di vista del lavoro, ma non solo dal punto di vista del lavoro. E niente, per stasera vi saluto e ripasso la parola alla regia. Talk a lot about wanting to be free, sitting in the last lap of luxury, while some are dying for a handful of rice. Who controls the market? Who fixes the price? The price of grain and the price of blood. I asked the well-dressed Euro farmer, why do some Bene, siamo giunti al termine di questa trasmissione che è Zardins Magnetics, qui in diretta radiofonica dagli studi di Radio Onde Furlane, programma che viene trasmesso ogni giovedì in diretta dalle ore 20 alle 21:30. In sottofondo stiamo ascoltando questa band inglese, e loro erano gli storici, la storica band punk, anarcho-punk inglese dei Poison Girl. Questo è il loro album del 1985 che appunto si chiama The Price of Grain, The Price of Blood. E vabbè, altra cosa, che la cantante ormai non esiste più, è morta 5 anni fa alla tenera età di 81 anni, e comunque questi sono i Poison of Girl, scusate, The Poison Girl. E, altra cosa, prima proprio di lasciarvi definitivamente, e vi rileggo i nostri contatti per chi ci volesse scrivere tramite posta elettronica. La casella, la mail è liberetutti@autistiche.org, ripeto, liberetutti@autistiche.org, oppure chi volesse scriverci in modalità cartacea ci può scrivere ad Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, 34121 Trieste, ripeto, Associazione Senza Sbarre, casella postale 129 Trieste Centro, codice di avviamento postale 34121 Trieste. Chi volesse riascoltare questa trasmissione o anche le scorse precedenti, delle settimane o dei mesi precedenti, deve andare ovviamente sul blog zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Ripeto, zardinsmagneticsradio.noblogs.org. Bene, ciao a tutti, l'appuntamento è ovviamente per il prossimo giovedì, e vi lascio con questo brano dei Poison Girl. Where are you going in the summertime when the air is sweet and the sun is high? Where's the holiday you can take if you're on the dole, not on the make? And we all know, and they all know, we never messed with a standing stone. Stonehenge is free, it won't be owned, it's no dying ruin. English heritage, go to hell, you don't know what you're doing. Stonehenge is free, it won't be owned, it's no dying ruin. English heritage, go to hell, you don't know what you're doing. This time they went too far, what fools the landed gentry are. Stop your razor wire down your throat, wash it down with a £5 note. Stonehenge won't be controlled, don't mess with a standing stone. Smash, the pulleys break, the pulleys made a big mistake. The power is ours for us to take, and we know what we're doing. The pulleys smash, the pulleys break, the pulleys made a big mistake. The power is ours for us to take.